Certo, allora stamattina verso le 8 c'è stato lo sgombero della Verdi 15 occupata. Dopo una buona mezz'oretta sono riusciti ad entrare prendendo a picconate il muro. Voi quando ve ne siete accorti, ad esempio, tu quando te ne Ce ne sei siamo accorti? accorti subito, infatti ci siamo subito tutti mobilitati velocemente, ma è servito veramente a poco, anche perché hanno provato a sfondare su varie parti della casa e era infattibile riuscire in qualche modo a evitarlo. E come sono riuscita ad entrare? C'è stato qualche tafferuglio con qualche ragazzo, infatti qualche ragazzo aveva dei segni in faccia arrecati dagli sbirri. Ci hanno fatto disporre tutti seduti lungo il corridoio e subito dopo ci sono stati infatti ancora altri malmenamenti, soprattutto un ragazzo che è stato preso malamente e sbattuto contro una porta finestra, infatti penso che gli abbiano spaccato il naso ed era pieno di sangue. Non ci sono riusciti a entrare praticamente dalla casa che c'è a fianco, entrando dentro penso il corridoio, che c'era un muro che dava nel nostro bagno e l'hanno tirato giù a picconate. E sono entrati da lì. Ok,